La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci alla Rosa Purpura, eccoci qui al nostro settimanale di cinema su Radio 24 in un orario nuovo, come vi sarete resi conto. Chi è un nostro vecchio ascoltatore sa, lo abbiamo detto settimana scorsa, da questo fine settimana, il sabato alle 16.05, il cinema è qui su Radio 24 con la Rosa Purpura nel nuovo palinsesto, una nuova collocazione. Chi invece è un nuovo ascoltatore perché in quella fascia oraria non ci seguiva, beh, insomma, benvenuti al più vecchio programma di cinema della radiofonia privata italiana. E questo, insomma, diciamolo, perché siamo al nostro 14esimo anno di attività qui alla Rosa Purpurea, dal 1999, anzi addirittura il millennio scorso, pensate un po'. Allora, la Rosa Purpurea, cinema, cinema in sala, cinema da vedere sul grande schermo, perché è lì che il cinema diventa davvero quello che noi amiamo. Una settimana questa con parecchie uscite, 6-7 film con una grande distribuzione nazionale. Noi cominceremo subito, fra poco, a parlarvi di un bel film italiano, con queste note che sembrano uscire da una radio AM. Siamo negli anni 70 e quelli erano anni felici. Quei giorni perduti a rincorrere il vento, a chiederci un bacio e volerne altri 100. La straordinaria voce di Fabrizio De André con Amore che viene, amore che vai, una delle canzoni della colonna sonora del film Anni Felici di Daniele Lucchetti. È un po' quello che abbiamo scelto come film della settimana, il film che vogliamo approfondire di più, un film che ci riguarda da vicino, da dentro, perché è un film che racconta le rivoluzioni personali e sociali dei nostri anni 70. Nel cast Kim Rossi Stewart, Michaela Ramazzotti, Martina Gedeck nei ruoli principali, beh, insomma la coppia marito e moglie, diciamo così, sono qui Rossi Stewart e Michaela Ramazzotti, straordinari tutti e due. La storia anche abbastanza autobiografica, come sentiremo fra poco da Daniele Lucchetti, di un amore folle, un artista, uno scultore, un artista concettuale romano che cerca da se stesso il meglio, che vorrebbe riconoscimento per quello che è la sua arte, una donna che ama follemente quest'uomo, ma che sente di non essere forse così indispensabile, di non essere così, così conosciuta. Una donna che comincia anche con figli piccoli che sono lì, e uno di quei figli piccoli è proprio il piccolo Daniele Lucchetti nel film. Una donna che comincia a porsi degli interrogativi su quello che è e su quello che davvero vuole diventare. La porta un po' fuori da se stessa, cioè le tira fuori la verità più interiore un'amica, una gallerista che è amica del marito e diventa anche amica della moglie. In novembre o col vento d'estate. Ho visto come ti guardano i tuoi figli. Loro mi amano solo perché li obbligo. Guido invece chi lo sa. Io non sono la donna giusta per lui. E quale sarebbe quella giusta? Un intellettuale? Se ne meriterebbe una, guarda. Comunque non è sempre facile capire cosa vogliamo davvero. Tu, per esempio, lo sai cosa vuoi? Mi piacerebbe tanto che Guido ottenesse quello che vuole dal lavoro. Questo è un suo desiderio? No, è anche mio. Sì, ma qual è un desiderio che riguarda solo te? Mi sa che non ce l'ho. Mi sa che non ce l'ho. E quando una persona comincia a interrogarsi e poi diventa una mina vagante, è così proprio che questa donna a un certo punto comincia a cercare altro, comincia a capire di avere un ruolo. Erano anni nei quali la donna cercava nella società un proprio ruolo e lo trovava in maniera anche molto conflittuale, e a un certo punto prende i bambini e se ne va. Io se sei stata voglio portare i bambini in Francia. In Francia? No, non mi vado ad andare in Francia, che ci andiamo a fare? Stiamo tanto bene qua. Infatti che non devi mica venire. Un posto per sole donne. È un posto per femministe. E io? Non te niente, rimane studio. Dividersi per ritrovarsi, per ridividersi di nuovo, ma per trovare poi fondamentalmente se stessi. Sembra essere questo un po' il noccio della storia raccontata da Daniele Lucchetti, che aveva questo film in cantiere da una quindicina d'anni, scriveva appunti, ma non trovava mai il momento di farlo diventare davvero un film. Quel momento è arrivato. Prima aveva un titolo, Storia mitica della mia famiglia, che era forse un titolo un po' meno efficace di Anni felici, ma insomma che raccontava moltissimo. È un film molto coraggioso, perché mi rischia il la biografia con la grande storia, le interpretazioni con i personaggi, che sono personaggi che sembrano proprio figli di quel periodo storico. E proprio di questo allora vogliamo parlare con Daniele Lucchetti, che è in collegamento qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno. Ciao. Tu hai raccontato, Daniele, un film con ampie premesse autobiografiche, anche se poi con tanta invenzione, con tante situazioni inventate. Però, insomma, i caratteri dei personaggi sono quelli che hanno contrassegnato la tua infanzia. Tu sei quel ragazzino con la macchina da presa. Ti sembravano anni felici anche allora? Forse ero più consapevole. Ero più consapevole di quanto faccia capire nel film, perché mi piaceva essere bambino, questo sì, cioè non avevo una vita familiare forse più piacevole di quanto, cioè questo essere continuamente con i genitori, che nel film è un po' drammatizzato, poi in realtà ci riempiva, ecco, ci faceva essere più lieti. E poi certo, quando sei sempre con loro, come dice mia madre oggi, dice, non eravamo uniti, eravamo appiccicati. E ti porti dietro il dover vedere anche delle cose che magari non hai voglia di vedere. Il film racconta anche questo, forse drammatizzandolo un po'. Senti, parliamo degli attori, perché sono bravissimi, vabbè, e questo se voi lo sapevamo, Ken Rossi Stewart, come sempre, è uno dei pochi attori italiani capaci di calarsi pienamente dentro una parte e di viverla con una sensibilità fortissima. L'abbiamo visto anche in altre situazioni, però devo dirti, quella che mi ha veramente sorpreso in un certo senso qui è stata Michela Ramazzotti, che secondo me fa un lavoro straordinario di un'istintività che buca lo schermo e passa addosso allo spettatore. E questo è verissimo, anche se Michele è più razionale di quello che possiamo pensare, cioè sa razionalmente che deve lasciarsi andare, quindi è come se preparasse delle basi in maniera seria per poi dimenticarle nel momento in cui recita, cioè non penso che abbiano tutte e due lo stesso tipo di quantità di razionalità e irrazionalità, è come se però le usassero in momenti e modi diversi. E allora per chiudere un'ultima considerazione su Anni Felici, c'è forse anche un po' di rimpianto, magari involontario, che esce da questo film per un'epoca nella quale pensare fuori dal coro era possibile? Sì, era proprio quasi obbligatorio, in senso che a forza di essere anticonformi, desiderio di essere anticonformisti rendeva forse tutti un po' conformisti, però comunque erano anni felici perché ci si domandava, ci si interrogava sul cosa essere, sul perché essere in un certo modo. E erano anni in cui si voleva fortemente rinnovare non solo il mondo, ma proprio anche le famiglie, i rapporti umani, i rapporti uomo-donna. E questo trovo che sia, come dire, questo domandarsi le cose ogni giorno sia una perdita, che oggi non c'è più. Daniele Lucchetti alla Rosa Purpurea. Adesso noi non abbiamo perso la voglia di giocare con voi anche in questa nuova collocazione, e quindi il nostro game continua a esserci, continua a esistere, per regalarvi tutte le settimane i film più belli in un video. E allora giochiamo con la prima traccia del nostro film misterioso. Oh Santa Madre del Santissimo Dio, benedici le nostre armi, indirizza i nostri proiettili e consacra noi, così che la nostra ira possa diventare la tua. Se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo al nostro indirizzo email, larosapurpurea@radio24.it. Per chi, i primi due ascoltatori che indovineranno il titolo esatto del film con il loro indirizzo, ve lo ricordo ancora, ci sarà la copia in Blu-ray di questo film, che sveleremo la prossima settimana, ma più tardi avremo l'ultima possibilità. Ancora qui alla Rosa Purpurea a parlare di grande cinema sul grande schermo. In questa nuova collocazione ci sono venute anche un po' di nuove idee. Ho detto, perché non inseriamo, era una cosa che volevamo fare da un po' di tempo, però insomma, perché non inseriamo uno sguardo femminile che guardi i film non perché siano film che raccontano storie di donne, o anche sì, non importa, ma che lo guardi con gli occhi delle donne, certo non di tutte le donne, ma chiaramente comunque con uno sguardo, con una sensibilità che abbia un altro modo di vedere le cose del grande schermo. E siamo quindi in collegamento con quella che potremmo definire la nostra vera Rosa Purpurea, ovvero Sara Sagrati, che è con noi. Ciao Sara. Ciao Franco, wow, che presentazione. Hai visto? Adesso ecco. Mi devi due caffè. Una grande, grande responsabilità. guarda caso, oggi il film di questa nostra piccolo spazio che abbiamo voluto tra di noi, titolo di lavorazione, working title, abbiamo voluto chiamare Quaderno di Donna o Taccuino di critica, è un film di una donna che ha davvero un po' cambiato le cose. Ne è dimostrazione il fatto che 30 anni dopo la sua morte siamo qui ancora a parlarne, insomma, di quello che è successo, 30 anni no, più di 20 sì, però, di quello che è successo e di quello che ha fatto cambiare, è ancora un punto di riferimento per un certo tipo di mondo nobile, aristocratico e regale. Stiamo parlando ovviamente di Lady Diana, che è diventato un film pluriannunciato da questo fine settimana sui grandi schermi d'Italia. Sentiamo questa clip e poi ne parliamo. È stato l'evento dell'anno per la crema della società di Sud, l'occasione di incontrare la principessa del Galles a un ballo di beneficenza al costo di 300 sterline a testa. Siamo immensamente felici che un uomo buono, il dottor Victor Chang, abbia fatto tanto. E di questo gli siamo tutti molto grati. Sara, questa era Lady Di, la Lady Di cinematografica. Cosa ci racconta questo film e come ce lo racconta di un personaggio diventato mitico a un certo punto? Infatti dicevi tu giustamente, la donna più famosa al mondo, nel film molto spesso viene detta questa frase, la donna più famosa al mondo, e quindi è bello iniziare da lei. Il film vuole essere una rivisitazione ancora, perché noi donne siamo tutte quella cosa lì, ancora della favola di Cenerentola, però questa volta al contrario, perché c'è già la principessa, ma come la sguattera vuole diventare principessa, la principessa forse vuole diventare sguattera, tanto che a un certo punto si mette a pulire una cucina, vuole imparare a cucinare, vede la casa del suo uomo sporca e subito prende in mano l'aspirapolvere per mettere a posto le cose, che da un certo punto di vista ci fa piacere noi donne sapere che non vogliamo mai quello che abbiamo, ma vogliamo sempre qualcos'altro. Dall'altra parte però il film si perde un po' su questa rivisitazione della favola, purtroppo, e si incarta in un sentimentalismo d'accatto da cui anche noi donne vorremmo uscire. È vero, Diana voleva l'amore, è vero, il suo matrimonio, come disse lei, era un po' affollato, però la grande storia d'amore con questo dottore pakistano forse a un certo punto diventa veramente troppo sdolcinata. E quindi magari forse è meglio il mercoledì, che in molti posti il mercoledì costa meno il cinema. E allora, con questo invito al risparmio in un momento di crisi, grazie a Sara Sagrati, ci sentiamo settimana prossima. Grazie, ciao. E allora, cinema sul grande schermo. Abbiamo sentito il consiglio della nostra Sara Sagrati, il nostro punto di vista femminile, e andiamo invece al punto di vista ironico e irriverente del nostro Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris! Salve Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono tempi così, tocca correre. Allora, cominciamo subito. Tre film per Boris, tre tweet potremmo chiamarli, che lanciamo nell'etere per essere raccolti, per farli diventare consigli di visione o no. E allora cominciamo con la clip di Gravity. Explorer qui Houston. Vi ascolto Houston. Abortire missione, ripeto, abortire missione. Explorer, sono Kowalski, confermo contatto visivo con i detriti, sono di un satellite BSE. Alfonso Cuarón dirige il film d'apertura della Mostra del Cinema di Venezia con George Clooney e Sandra Bullock, Persi nello spazio. Boris, potremmo dire Houston, anche stavolta abbiamo un problema. Abbiamo un grosso problema, perché chiaramente arriva e distrugge l'astronave dei due protagonisti, gli unici due protagonisti, sono i russi, un'astronave russa, e però non distrugge il film. Lo fa esplodere invece questo film, grazie a un'ottima Sandra Bullock, a un comprimario di lusso come George Clooney, che fa quello che meglio gli riesce l'istrione, ma grazie soprattutto ad Alfonso Cuarón, che prende una sceneggiatura che è quasi imprevedibile nella scrittura, che prevede scene e dialoghi che potresti quasi anticipare, la fa diventare grande cinema hollywoodiano, grande cinema in cui si inizia con un piano sequenza, in cui si dilatano i tempi e ovviamente lo spazio, e in cui c'è un 3D straordinario che, a mio parere, ancora più che in Avatar, diventa essenziale alla narrazione e alla poetica. Cuaron fa un capolavoro, reinventa il cinema fantascientifico proprio come aveva già fatto con I figli degli uomini. Gravity non è l'unico film di questa settimana con Sandra Bullock protagonista. Ecco perché vi abbiamo preparato questa clip di Corpi da reato. Signore, non capisco. Ho risolto più casi di qualunque altro agente. FBI. Lei è un agente federale troppo equilibrata. Hai talento, ma non fai gioco di squadra. Risulti antipatica. Aspettate che conti fino a 3. 1. Lei è una poliziotta troppo squilibrata. Ehi, guarda chi c'è! Come il topo con il formaggio! Scappa in pazza! Ancora la storia dei poliziotti, anzi delle poliziotte molto diverse che devono fare squadra e riusciranno a farlo. Una sorta di arma letale al femminile, questo Corpi da reato. Sì, assolutamente, o anche Beverly Hills Cop, solo che prima la coppiata era bianco-nero, finalmente il cinema diventa un po' meno maschilista e i buddy movie li fa fare anche alle donne. Sandra Bullock, spettinata almeno un po', diventa più simpatica e a mio parere anche più brava. Melissa McCarthy è una potenza. L'unico difetto che può avere è che non c'è la stessa forza comica che ci può essere in un film europeo. C'è questa comicità statunitense demenziale, un po' arrabbiata, che non capiamo sempre, ma a mio parere comunque questa coppia è assolutamente da rivedere e il film diverte il giusto. E allora, promozione anche per Corpi da reato. Il nostro Boris Sollazzo è diventato troppo buono, ma lo sarà ancora di più, ne sono convinto, con la terza e ultima delle proposte che gli abbiamo lasciato, perché Las Acacias è il film sicuramente di nicchia, sicuramente d'autore, sicuramente cinefil, che però va davvero visto. Usted Rubén? Vengo parte del signor Fernando. Ecco, come avete anche capito da questa clip in originale e poco parlata, si parla pochissimo in questo film, ma il cinema lo fanno gli sguardi, lo fanno le situazioni, lo fa una bambina fantastica, un camionista, una donna con una figlia di 5 mesi al seguito, un viaggio della speranza, ai noi, un film terribilmente d'attualità. Qui assolutamente non bisogna essere troppo buoni per farsi piacere Las Acacias. Camera d'oro nel 2011 a Cannes. È un film ancora, direi, femminista, perché la vera protagonista è Jacinta, un film silenzioso, muto, essenziale, difficilissimo da raccontare senza intellettualismi e autorialismi, ma Giorgelli, questo argentino, questo giovane argentino esordiente, ci riesce benissimo. È un on the road in cui non serve spiegare molto, la magia del cinema spesso è capire senza sapere. Qua sappiamo poco, ma capiamo tutto da queste facce straordinarie degli attori, da questi luoghi, da questo modo di muovere la macchina da presa. E questo basta, questo è grande cinema. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni. Grazie a te, buon cinema. E allora siamo alla seconda e ultima clip del nostro film misterioso di oggi. Sono Gagarin, di Fiume Basso. Facci passare. È un consiglio da amico. E io sono avvoltoio della riva. E avvoltoio non accetta consigli da nessuno. Avete indovinato il titolo del film? Scrivetecelo in una mail alla rosapurpurea@radio24.it. Provate a vincere, per i primi 2 ascoltatori che indovineranno, il Blu-ray di questo film che vi riveleremo la prossima settimana. La trasmissione adesso ha una durata di mezz'ora, quindi le clip sono diventate 2. Diventa un po' più difficile, ma insomma voi siete molto bravi. Vedo che molto spesso vincete anche al primo tentativo. Visto che siamo in atmosfera di un video, andiamo a sentire la clip del game della scorsa settimana. Era inevitabile, Baloo. Lui non poteva farci niente. Doveva succedere. Ora Mowgli è là dove è il suo posto. E si trattava del Libro della Giungla in Blu-ray, la novità della scorsa settimana, il game della scorsa settimana. La Disney sta rieditando in alta definizione tutti i grandi classici del suo immenso catalogo. Lo hanno indovinato per primi e riceveranno il Blu-ray Andrea Asquini di Padova e Maurizio Giuliano di Roma, loro i vincitori del Blu-ray di questo film. Noi ci colleghiamo con la redazione di Film TV, partiamo proprio da qui. Dicevamo, Disney ripubblica un po' alla volta, è un'operazione che va in scena da parecchio, i suoi grandi classici. Tocca al Libro della Giungla. Il Libro della Giungla è in un'edizione Blu-ray Disney, una Diamond Edition dall'abituale confezione elegante per questo classico dell'animazione datato 1967. l'immagine rimasterizzata rende giustizia al raffinatissimo lavoro artigianale di un modo di fare animazione ormai antico. E tra le tracce sonore consigliamo a chi se lo vuole godere in home theater di scegliere il DTS HD 7.1 inglese rispetto al Dolby Digital 5.1 italiano. E per chiudere invece andiamo a sbirciare i palinsesti della televisione, perché anche da lì possiamo vedere bellissimi film in totale gratuità, e in questo caso abbiamo raccolto una delle pellicole più recenti di Ken Loach, che si intitolava Il mio amico Eric. Sì, Il mio amico Eric è martedì sulla 7D alle 21.10. Eric è un postino alla deriva che è sempre stato fanatico di calcio e soprattutto del Manchester United, ma ora ha smesso anche di andare a tifare per un semplice motivo, perché la sua vita sta andando decisamente a rotoli. Per fortuna però un giorno gli appare un sorprendente allenatore e motivatore immaginario, che è niente poco di meno che Eric Cantona, stella marsigliese del Manchester anni 90. Una commedia proletaria, uno dei film più divertenti di Ken Loach, che fa un cinema che davvero oggi non fa più nessuno, civile e qui poi particolarmente fantasioso, schierato e immerso in un paese, in una classe sociale, pregno del suo immaginario e senza intellettualismi, un delizioso inno alla solidarietà. E allora ricordiamo il film Il mio amico Eric, martedì 8 ottobre sulla 7D alle 21.10. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Ciao Franco, la prossima settimana con le nostre segnalazioni. E siamo arrivati quindi alla fine del nostro programma. Sentite le note della sigla. Appuntamento la prossima settimana. Vi ricordo la pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace e restate in contatto con noi tutta la settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.